Benvenuti tutti quanti alla nostra serata dedicata alla narrativa. Questa sera ho il piacere di ritrovare in biblioteca con noi Giacomo Sartori, un autore trentino che si divide per la verità fra Trento e Parigi e che è già stato ospite della biblioteca alcuni anni fa. Abbiamo parecchi suoi romanzi molto apprezzati, tra l'altro dal nostro pubblico. I suoi libri escono sempre, sono sempre in prestito. Sì. Ecco, quindi c'è un riscontro anche positivo che verifichiamo. Questa sera ci presenta una delle sue ultime fatiche, Autismi, e viene accompagnato in questa presentazione da Giovanni Accardo come moderatore e da Lorenzo Menguzzato, in arte L'Home, che è l'artista che ha realizzato le opere che vedete appese in biblioteca. Abbiamo questa sera una cornice un po' diversa da quella abituale. Io vi ringrazio, sarà sicuramente una serata interessante ascoltare il nostro autore e vi anticipo che probabilmente in primavera, quando uscirà il suo nuovo libro Sfondo Storico e precisamente Cielo Nero, Gli ultimi giorni di Galeazzo Ciano nel carcere di Verona fra tragedia e seduzione, aspettando la morte, ecco, abbiamo, si può dire, no? Già prenotato. Sì, l'abbiamo già prenotato, per cui appena sarà disponibile in libreria e ci sarà l'occasione di poterlo organizzare, insomma, tra aprile e maggio, faremo una serata più ad impronta storica su questo tema. Ecco. Io vi anticipo anche le altre due iniziative. Lunedì sarà la volta di Su Tirolo, il cammino degli eredi, con Francesco Bocchetti, Cristian Arnoldi e Carlo Calderano. Questo è il libro. Mentre il 2 dicembre, alle ore 18, sarà la volta di Matrimonio di sangue, Sirio Leitone e Mia nonna artista, l'autore è Franco Latino, ci sarà come moderatore Eugen Galasso, e ci saranno i due lettori, Grazia dell'Aquila e Patrizio Zendaco, che sono già stati presenti in biblioteca da noi. Vi porto i saluti del nostro assessore Tommasini. Questa sera a Bolzano ci sono più iniziative, quindi insomma ci siamo contesi un po' il pubblico, però siamo contenti, ecco, di riuscire anche come biblioteca a dare sempre degli stimoli, ad avere sempre anche degli autori molto apprezzati e noti come in questo caso Giacomo Sartori e il nostro artista Lorenzo Menguzzato. Grazie ancora e a voi la parola. Allora, come prima cosa bisogna tagliare un po' di appuntamenti, se organizzano troppi a Bolzano, e allora bisogna razionalizzarli almeno, lo diremo all'assessore, forse ci licenzia tutti così. Va bene, buonasera, è il terzo libro di Giacomo Sartori che io presento in questa biblioteca. Avevo presentato Anatomia della battaglia, uscito da Sironi, e avevo presentato 2 anni fa, era esattamente, ho controllato, ottobre 2008, Sacrificio. Sì. Entrambi romanzi legati al Trentino, legati alla terra in cui Giacomo Sartori è nato e vissuto, così come Tritolo, romanzo ancora precedente, in realtà più legato all'Alto Adige, perché raccontava una vicenda vagamente ispirata a Gamper, quel ragazzo meranese che nel 95, mi sembra, cominciò a sparare agli italiani. 96? Sì, forse inverno 96, probabilmente. Ecco. Quindi questo per dire che c'è nella scrittura di Giacomo Sartori un forte interesse a confrontarsi più che a raccontare il territorio, perché il rapporto con la terra non è sicuramente un rapporto di celebrazione, di ammirazione, ma è un rapporto sicuramente conflittuale e in qualche modo ritorna anche in questi racconti, così come ho trovato un tema ricorrente che non è soltanto il desiderio di raccontare una terra, soprattutto nel romanzo Sacrificio, ambientato in una valle del Trentino, in cui non è il Trentino dei cataloghi turistici, ma è un Trentino invece duro, il Trentino della noia, della solitudine, il Trentino dell'alcolismo. E diciamo che è un un racconto della Terra sicuramente impopolare per certi versi. È un tema molto forte in Anatomia della Battaglia che ho ritrovato in questi racconti, è il rapporto anche esso conflittuale con la figura paterna. E questi racconti sono usciti innanzitutto in rete nel sito di Nazione Indiana, che è uno dei siti letterari sicuramente più frequentati nel panorama italiano, un sito che raccoglie moltissimi scrittori e presenta molte novità anche nel dibattito letterario, e qualcuno di questi racconti io l'ho visto proprio postato nel sito, dove è possibile mettere i commenti. Allora, come prima domanda volevo chiederti se hai tenuto conto poi nel trasferire i racconti su volume dei commenti dei lettori, che spesso erano, devo dire, estremamente positivi, elogiavano la lingua, lo stile, uno stile in certi passaggi veramente molto elegante, vorrei dire persino cristallino, soprattutto nel racconto che apre questa antologia Autismi, che si intitola Il mio lavoro, di cui magari dopo leggiamo qualcosa. Questo rapporto con la rete, se magari vuoi raccontare, visto che tu ne fai parte del gruppo di Nazione Indiana, cos'è questo spazio virtuale? Nazione Indiana è un qualche cosa come una rivista su internet, invece di uscire su carta, è consultabile giorno per giorno su internet, e giorno per giorno ha degli aggiornamenti, ci sono nuovi contributi. Siamo una ventina di scrittori molto molto diversi. Si va da super famoso, perché anche Saviano fa parte di Nazione Indiana, faceva parte quando non era assolutamente Saviano, era uno scrittore sconosciuto che non aveva pubblicato nessun libro. Ed si va abbiamo dei poeti molto, molto bravi, altri scrittori più sperimentali, abbiamo degli studiosi di letteratura, diciamo una paletta molto larga di persone che si occupano di narrativa, non solo di narrativa, di poesia, di letteratura. E questo è molto bello, perché in Italia tutto è parcellizzato, no? Tutto, ci sono tutte le cricche che invece il bello di Nazione Indiana è proprio questa grande apertura, magari anche forse un po' il limite, nel senso che funziona come una macchina un po' anarchica, perché ognuno porta avanti un po' le sue cose, però il bello è proprio le tante voci molto molto diverse, come età, come anche provenienza geografica, andiamo dal Trentino alla Sicilia, no? E quindi io questi racconti li ho messi nel corso di un anno, li ho postati nel linguaggio di internet, pubblicati diciamo su questo sito nel corso di un anno. E come diceva Giovanni, ma no, una delle caratteristiche del nostro blog è che i nostri interventi sono aperti ai commenti, altri blog sono chiusi, no? Mentre noi siamo aperti ai commenti, e quindi sono sempre i commenti più disparati. Come diceva Giovanni, in qualche caso i commenti erano positivi, in altri casi no. Diciamo, io sono sempre molto attento a quello che si dice, su quello che scrivo, nel senso che sia, perché qualcosa si impara sempre, qualcosa di vero c'è sempre, no? Anche se il commento è sbagliato, no, non so come dire, qualche cosina fa sempre pensare, no? Poi di là a dire che questi commenti mi abbiano influenzato, direi assolutamente, assolutamente, assolutamente no, anche perché i commenti su internet spesso sono un po' virulenti, sì. No? Non so perché internet è un mezzo che caizza i toni più perentori e più, anche sì. più polemici e più violenti. Per qualcuno che non si è abituato, come primo impatto, io stesso, della verità, non è il mio modo di confrontarmi con gli altri, così. Però diciamo, in questo marasma di commenti qualcosa di interessante c'è sempre. Diciamo, quello dal passaggio alla versione su internet a questo ho rilavorato la forma, no? Li ho rivisti, li ho condensati, una delle mie interessi per nei riguardi della scrittura è proprio, sono molto legato alla forma, la mia lingua è abbastanza piana, non è una lingua sperimentale né niente, però ci tengo molto alla forma, e diciamo in questi mesi di decantazione tra la pubblicazione su internet e poi il momento in cui li ho ripresi in mano, e come dire, un qualche miglioramento secondo me c'è stato. Ecco, abbiamo parlato dei commenti e quindi del dialogo spesso con persone di cui non si sa neanche chi siano, sono a volte semplicemente dei nomi. Però il titolo è Autismi, e l'autismo è esattamente il contrario della comunicazione, questa malattia per cui un bambino si chiude in un mondo proprio e vive in questo mondo. È la difficoltà, la grande difficoltà dell'autismo è proprio stabilire un canale di comunicazione con l'autistico. Perché allora Autismi? Beh, è un po' un gioco di parole tra autobiografia e autismo, no? E l'autobiografia invece è un'apertura verso l'altro, mm-hmm. Un'apertura, mentre l'autismo è una chiusura. Quindi mi piaceva giocare tra questi due estremi. Il titolo è venuto già quando ho pubblicato il primo racconto. Ho pensato un po' a quale poteva essere il titolo generale, perché già avevo in mente una raccolta e mi è venuto Autismi. Sono quelle cose, quelle intuizioni che vengono e se uno cercasse, come dire, come una battuta di spirito, no? Sono quelle cose che vengono così fulmine e quasi si capisce a posteriori la portata. E di autistico c'è, diciamo, che questo personaggio che io descrivo, che non sono esattamente io, che però ha qualche cosa di autobiografico, ha anche delle chiusure, anche degli atteggiamenti un po' autistici, c'è anche quello, diciamo, senz'altro, no? Sì, infatti, ecco, un'altra cosa vorrei dire è che più che racconti, qui nel risvolto di copertina sono presentati come recitativi d'autore, sono prevalentemente più monologhi che non nel racconto tradizionale, dove c'è una vera e propria azione, c'è sempre un personaggio che racconta in prima persona. E prima di parlare delle illustrazioni vi volevo leggere qualche brano anche per sentire, visto che il lavoro è stato prevalentemente linguistico, allora è bene sentirlo. Partirei con il primo racconto, che si intitola Il mio lavoro. È un racconto, sarebbe da leggere tutto, ma è un po' lungo, leggo qualche brano e poi vediamo che lavoro è questo particolare lavoro, no? Io ho un'idea, ma poi sentiamo l'autore. Il mio lavoro consiste nel fare buche nella terra, buche grandi e profonde in cui c'entra comodamente una persona, poi appunto c'entro dentro, mi ci seppellisco, si potrebbe dire. Però, a differenza di un vero seppellimento, nessuno poi aggiunge altra terra tra me e lo scavo. Contrariamente a un vero funerale, posso muovere le braccia, posso respirare come voglio, posso venire fuori quando ho finito, posso guardare un rettangolo di cielo, posso parlare, posso urlare la mia gioia, ammesso e non concesso che abbia della gioia in sopravanzo. Il mio è un seppellimento temporaneo, reversibile. Quando ho finito esco e torno a casa mia. E poi comunque, a differenza dei morti veri e propri, non mi sdraio, sto in piedi. È raro che i morti stiano in piedi, che io sappia, succede solo in certe civiltà del passato. I miei conoscenti stentano a capire che lavoro faccio. Io cerco di spiegarlo meglio che posso, perché mi piacerebbe che avessero un quadro dettagliato della mia occupazione, visto che per me è tanto importante. Ma dopo un po' constato che hanno perso il filo e lascio stare. Mi rassegno al fatto che diano per scontato che voglia nascondere qualcosa. Sopporto che quando per caso viene fuori il discorso faccia un sorrisetto di connivenza con me, sotto, come se sotto al mio lavoro ci fosse chissà quale mistero. Mia moglie pensa che succeda così perché non so spiegarmi bene. Non lo dice chiaramente, ma io lo leggo nei suoi occhi glaciali d'aschi. I suoi occhi glaciali d'aschi dicono che se io mi spiegassi a dovere tutti capirebbero in cosa consiste il mio lavoro. Quel che è certo è che solo quelli che mi sono più vicini hanno un'idea un po' precisa della mia professione. E poi ancora. La mia è un'attività molto solitaria, perché nei buchi che faccio c'è posto per una sola persona. Qualche volta, soprattutto quando il buco lo scavo il pomeriggio e poi sono costretto a rimandare la fine del lavoro al giorno dopo, nella mia fossa trovo qualche forma di vita. Ma non si tratta mai di esseri umani, sono piuttosto coleotteri, prigionieri del loro scudo di chitina, lunghi lombrichi mollicci e depigmentati, minuscoli vermi trasparenti che lasciano impudicamente vedere la terra ingerita. Quelli che fanno il mio stesso lavoro mi hanno sempre ispirato una giuliva simpatia. In genere sono persone semplici e franche, perché la complessità enigmatica delle buche è una severa scuola di umiltà. Le loro pelli emanano l'odore del caldo, del freddo e del vento, il gusto inconfondibile della libertà. Sono molto diversi da me, anche gli uni dagli altri, ma per certi versi sono anche uguali. Nei loro occhi leggo la mia stessa sete di capire, la stessa fanatica ostinazione, lo stesso mio latente scoraggiamento, la stessa incipiente spossatezza. Per la maggior parte non hanno la smania che ho io per le parole schiacciate per sempre sulla carta, ma hanno pur sempre gli occhi febbricitanti di passione. I loro eventuali vistosi difetti mi sembrano insignificanti, come succede con le persone che amiamo. Se fossero state buche nell'acqua, avrei pensato alle scarse soddisfazioni che a volte può dare l'attività solitaria dello scrittore. Però comunque ho pensato, leggendo questo racconto, che è molto bello, perché fino alla fine non dice mai di cosa si tratta, ma suggerisce, come deve fare la letteratura, allusioni, suggestioni, no? E io ci ho visto una metafora del lavoro dello scrittore. Non so però se tu avevi in mente invece tutt'altro. Faccio una piccola parentesi. Mi ricordo quando ero all'università, facevo un corso su Montale. Il professore ci parlò di una poesia in cui c'era la figura di un barcaiolo, il barcaiolo Duilio, che spingeva attraverso un fiume. Un sacco di interpretazioni, e la Divina Commedia. E poi un giorno un altro poeta disse: guardate, quello c'era veramente il barcaiolo Duilio, che a bocca di magra ci faceva andare dall'altra spiaggia. Qua a volte uno si immagina chissà che, e poi arriva l'autore e ti smonta. Ma in questo caso qual è questo lavoro? No, appunto anche qua c'è qualche cosa di autobiografico, nel senso che io sono agrono, però ho sempre lavorato con i terreni, sono specialista di terreni. E l'unica maniera per studiare i terreni è fare una buca e guardare i terreni, perché i terreni non li vediamo, noi vediamo solo la superficie, i terreni sono sottoterra, no? Perché il terreno ha anche una terza dimensione che va verso il basso. E quindi effettivamente nel mio lavoro c'è anche questa parte, che qui esagero, non è solo quello il mio lavoro, però c'è anche questa parte molto, molto terra-terra, per dire, di osservare il terreno, di sporcarsi, di prendere dei campioni, eccetera. E quindi l'idea è partita da quella. E poi appunto naturalmente diventa una metafora. Ecco, forse alla scrittura non ho pensato, però non potrebbe essere molto, molto più semplicemente una metafora della vita, no? La buca che ognuno si fa, che è la propria solitudine, il proprio mondo, insomma, e così le letture possono essere sempre molte. In realtà quando uno si scrive, e lo sa anche Giovanni, perché anche lui è uno scrittore, non si hanno in mente significati precisi delle metafore. Non è che si dice adesso descrivo una buca che vuole dire che vuole significare, no? E in realtà è un lavoro molto più intuitivo la scrittura. In realtà ovviamente si hanno in testa quelle che potrebbero essere le letture, però, no, come dire, almeno come la vivo io, non è mai un lavoro analitico e freddo, no? È più un qualche cosa di intuizione. Almeno forse io sono intuitivo, quindi lavoro così, e intuisco che usando quell'aggettivo lì o quella forma lessicale, eccetera, apro a qualche cosa e cerco sempre che le frasi che io costruisco abbiano il maggior numero di sensi possibile, quello probabilmente si cerca, no? Però non è che si lavori su un senso preciso, anzi mi dà noia quando in uno scrittore vedo dei sensi troppo precisi a me e vedo quello che ha voluto dire, vedo come ha costruito le sue metafore, vedo quello che c'è dietro, a me dà noia perché è come dire la considero una cosa troppo semplice. Forse quello che si cerca è proprio l'apertura, la polisemia più spinta possibile, no? E forse è quello che sì, in questo testo funziona molto questa possibile apertura verso altri significati. Le illustrazioni, chiamiamole illustrazioni, ma come vedete sono dei quadri molto belli, molto ricchi, molto pieni anche di colore. Il racconto che abbiamo letto c'è in questo. C'è in, qual è? È il penultimo, c'è scritto La pelle della terra, uh-huh. Cioè l'ultimo veramente, diciamo dei, in questo lato, sì. In questo lato, La pelle della terra, cioè questa chiamata della terra, no? Uh-huh. Però i titoli li hai dati in francese? Allora, è nata così un po' la collaborazione. Con Giacomo ci conosciamo veramente da tanti anni, abbiamo tanti amici in comune e la cosa casuale vuole che lui viene quelle 3-4 volte l'anno che viene più a Trento, insomma, ci incontriamo il giorno stesso, il giorno dopo che è arrivato, ma casualmente, per strada. E ogni volta lui mi dice, ma un giorno mi ha sempre detto, mi mostrerai il tuo studio, potrò vedere il tuo studio. E un giorno è venuto il mio studio e lui aveva già tutto pronto, quello che doveva chiedermi, però non me l'ha chiesto di fare delle illustrazioni. Ha aspettato, credo, la notte dell'ultimo dell'anno, del 2000. Sì. È successo proprio così, il primo dell'anno del 2010, e ognuno di noi fa dei propositi, no? A fine anno, e dice non farò più questo, non lavorerò più coi poeti, non farò più le copertine per degli amici, cercherò di impegnarmi nel mio lavoro. Ho aperto il computer alle 7 di mattina, perché quest'anno ho tirato tardi, ho acceso e la prima cosa che mi viene fuori è Giacomo Sartori, autismi. Ed era un appello, una richiesta, non capivo cos'era, però subito ho detto, beh, però se è per Giacomo, allora mi devo impegnare. In verità, lui mi ha detto appunto di questa cosa dei blog di Nazione Indiana, dei racconti, ho provato ad andarci su, io sono, mi dichiaro un impedito informatico. Diversamente informatico, diciamo. E mi avevo letto un pezzo, poi un pezzo non lo trovavo, non capivo, insomma, forse il mio computer. Anche ho detto, guarda Giacomo, potrei anche provarci, ma mi devi mandare tutto stampato. E questo blocco di racconti l'ho avuto in studio per 3-4 mesi, ogni tanto arrivava qualche amico, che siccome stavo dipingendo lo prendeva in mano, lo guardava, leggeva e mi diceva, ma chi è questo? In che senso? Alcuni mi hanno detto, ma che bello questo! Molti erano colpiti da un racconto che non so se potrei raccontare, che si chiama La mia città, un po' perché... È già pronto. Ma quello che voglio dire, insomma, che alla fine queste immagini, perché all'inizio mi aveva chiesto l'illustrazione, io gli ho proposto di fare dei quadri, perché questo è anche il mio modo di dipingere, abitualmente. Abitualmente io prendo dei poeti del passato, in particolare poeti e non scrittori, non narratori, e faccio una sorta di taglio e cuci, prendo delle parole, non so, di Rilke e ne faccio diventare un quadro. In questo caso ho pensato di chiedere a Giacomo di sezionare i suoi racconti in qualche modo, di tagliarli, di fermarsi e soffermarsi su delle singole parole usate nel racconto dove lui magari si è soffermato di più o dove c'è un passaggio ulteriore, no? Per cui, e l'ho chiesto anche, visto che lo sentivo ma era lontano, di scriverlo nella sua lingua anche del posto dove era, cioè in francese. Per cui, per esempio, in questo quadro in cui c'è Fugge la patria, questo primo quadro, Le patries en fuite, il mio francese è veramente no scolastico, peggio. Il quadro è diviso in due, no? Con questi colori tipicamente nazionalisti francesi sotto sì, e sopra sì, colori sì. Italiani. È vero, sì. Mentre per esempio nell'attuale editore non sapevo più dove mettere le mani, allora ho stracciato il manoscritto datomi da Sartori, in particolare quello dell'editore che mi era antipatico. Poi ne parliamo. Di questo rapporto che lui ha con gli editori. E ne ho fatto una sorta di collage, mentre poi per esempio qui è presente un'immagine, questa immagine gialla di questa figura gialla che un po' c'è questa scritta in francese. Poi per esempio il quarto quadro è un quadro che si rifà al racconto che adesso leggerai, e, insomma c'è stato uno stretto scambio di vedute, nel senso che a volte pensavo che Giacomo mi mandasse al diavolo, perché chiedere a un autore che ha già limato per fare dei racconti, e sono dei racconti veramente molto belli, ci tengo a dirlo, e chiedere addirittura di tirarmi fuori le parole chiave per fare dei buoni quadri, come se dovesse dipingerli lui, e invece insomma, sono contento perché è un buon esperimento e sto andando avanti anche con Giacomo pensando di fare qualcosina di... No, anche a me è piaciuto molto, parentesi brevissima, perché ho fatto altri libri con degli illustratori, a dire la verità, però è la prima volta che l'illustratore mi coinvolge in questo modo. Di solito l'illustratore o il pittore lavorava per... separatamente, alla fine arrivava con proprio materiale, questo è il mio materiale. Mentre l'uomo fin dall'inizio ha voluto appunto che individuassi queste frasi, le ho mandate, non andavano bene, troppo lunghe. Allora riprendi le frasi, falle più corte, adesso ti va bene, sì. Quindi l'uomo mi è piaciuto questo lavorare assieme, e devo dire anche che in realtà all'inizio volevamo fare un libro illustrato, adesso siamo arrivati alla fine a fare un libro con una sola illustrazione. I libri che ci sono oggi purtroppo non contengono ancora questa illustrazione, perché la versione definitiva del libro doveva arrivare oggi, non è arrivata, questi qui, quindi queste sono delle copie staffetta, come le chiamano gli editori, purtroppo non c'è ancora l'illustrazione. Però ecco, anche quello non sapevamo come dire, io ci tenevo che ci fosse un equilibrio tra testo e immagini, però appunto con le 13 quadri che lui ha fatto non era possibile, quindi abbiamo detto no, deve esserci una sola. Ci siamo trovati d'accordo su questo fatto, che o c'era un equilibrio o c'era un totale dell'equilibrio. Quindi c'è solo un'illustrazione, purtroppo, che è molto bella, ridotta, che è molto, che qual è, e no, è la terza, che è veramente anche ridotta, è molto bella, purtroppo ancora queste copie non c'è. E ecco, non so, solo per dire questo. Io fra l'altro, come l'accordo con Valeria, è che in cambio della presentazione avrei avuto in omaggio un vostro quadro, adesso lei lo sceglie e poi te lo paga e io me lo metto sotto braccio e me lo porto a casa. Volevo aggiungere anche una cosa, che noi abbiamo qui in biblioteca dei libri oggetto, ancora, esatto, illustrati da Lorenzo Menguzzato, ed erano libri scritti da Seravalli, sì. Luigi, vero? Sì. Ora gli anni fa. Quindi Li ho visti con grande piacere, sì. E devo dire la verità, non avrei mai riconosciuto Valeria perché è uguale a 20 anni fa. Voleva dire qualcosa? Voglio portare per fare vedere. No, ma prima parliamo del libro di Sartori. Sì, ma posso portarli dopo. Ah, sì, per vedere, facciamo vedere. Sì, volentieri. Ecco, quindi niente, dopo mi prendo il mio quadro e me ne vado. Ecco. Vabbè, altrimenti non avrei accettato, lo dico subito. Il secondo racconto di cui parliamo è appunto La mia città. La mia città è una città grigia, infossata in una valle grigia, costeggiata da minacciose montagne grigie. Il cielo è grigio, il fiume che si trascina stancamente è grigio, e anche gli stentati alberi sono grigi, con appena qualche moribondo riflesso verde marcio. Il dilagante cemento è paradigmaticamente grigio, così come i ridondanti asfaltamenti e le fumosità imprigionate dalla nefasta conformazione orografica. Persino i laghi sono stagnanti e grigi. Nulla da stupirsi che anche gli abitanti siano grigi. Il sole, poveretto, è costretto a tramontare altissimo nel cielo, un disgraziato che viene impiccato in cima a un funambolico patibolo. Ogni sera lo stesso affliggente spettacolo. Per fortuna molto spesso piove e quindi l'esecuzione si svolge dietro una cortina grigia di nuvole. La mia città è il posto tipico dove è impossibile essere felici. Metà dei cittadini ne sono coscienti e cercano in tutti i modi di fuggire, o perlomeno sono affranti al pensiero di non poter partire per questo o quel motivo. Riflettono per lo più sul suicidio. L'altra metà stanno benissimo dove stanno e per capirli ci vorrebbero degli studi neuropsichiatrici e psicopatologici più approfonditi. A tutt'oggi resta un enigma non chiarito dalla scienza. Certo, il consumo smodato di distillati alcolici non può essere considerato l'unica causa. Il problema naturalmente sono le montagne che impediscono allo sguardo di spaziare, di muoversi a piacimento, di ritemprarsi, di riposarsi, per non parlare delle idee che appena nate sbattono contro le pareti di roccia e muoiono tra atroci dolori. Ma naturalmente anche la respirazione ne risente. Le ossa si riempiono di fungosa umidità. In effetti tutto il fisico sopravvive a stento. I danni più grossi sono però all'anima. Che gli abitanti se ne rendano conto meno, i loro corpi cadono a pezzi, le loro anime agonizzano. È vero che l'ufficio turistico di Trento era commissionato per promuovere. Infatti, subito dopo dice: i menzogneri pieghevoli turistici non sono improvvisati in 448, sono il frutto di un'arte che nella mia città è stata coltivata e perfezionata nel corso dei secoli fino a erigersi a supremo e virtuosistico protocollo di vita, l'ipocrisia. Ogni infimo pieghevole turistico ha dietro in realtà 500 anni di approfondita ricerca teorica nel campo dell'ipocrisia, con rimbalzi speculativi che hanno influito sulle vicende storiche del mondo intero. Prima ancora di aver messo piede nella mia città mi ritrovo prostrato e avvilito. Per arrivarci la ferrovia è costretta a percorrere per decine e decine di chilometri l'angusta e grigia valle fiancheggiata da grigie pareti verticali di grigie montagne. Il cielo è ridotto a un'esigua fessura che trasmette una luce senza più vita, come un avaro lucernario della corte di una casa di detenzione. Cioè, per una terra come il Trentino, l'Alto Adige, che spesso vive di autocelebrazione, tu sei matto a scrivere queste cose, ti mettono subito in galera, ma come ti viene in mente questo racconto? Comunque, in realtà non stava parlando di comunque Trento. Comunque è sopravvissuto alla presentazione a Trento. Quindi. E devo dire che, diciamo, dillo Giacomo, devi dirlo però subito, il racconto finisce che... Ma non lasciamolo in sospeso, finisce in maniera strana. C'è un rovesciamento naturalmente, no? se fosse solo un'invettiva, in realtà poi la situazione finisce per ritorcersi contro la voce che parla, non rivelare il film, ma dici qualcosa su questo racconto. Allora dici qualcosa, poi alla fine si scopre che questa voce che parla ha tutti i difetti che hai elencato prima, diciamo, no? È vittima delle sue stesse enunciazioni, no? Se fosse solo così, diciamo, uno dei lati comici del racconto è proprio il rovesciamento che si attua alla fine. Ecco, un altro racconto che mi è piaciuto molto, e anche perché costruisce ancora una volta un'ambiguità, è il racconto intitolato Mio suocero, no? Perché c'è questa ambiguità, non si capisce se si sta parlando di uno che è vivo o di uno che è morto. Una figura molto interessante. Chi conosce la tua biografia prova a immaginare chi potrebbe essere, di quale terrorismo si parla, perché viene presentato proprio così, inizia con queste parole: quando l'ho conosciuto mio suocero non mi ha fatto l'effetto di un terrorista. E già avere per suocero un terrorista è comunque una cosa abbastanza, se non spaesante, originale. E poi dice più avanti: il miglior amico di mio suocero si aggirava per la casa con le mani dietro la schiena. ogni tanto entrava nella stanza con le persiane abbassate dove si trovava il suo fedele compare e poi usciva scuotendo la testa. Riprendeva a trascinarsi per la casa con le mani in tasca e mordendosi le labbra dall'interno. Era evidente che non aveva intenzione di parlare con nessuno. Anche lui era stato un terrorista, anche lui era stato condannato a morte. Lanciava in avanti le gambe con dispetto, come fanno le persone che sono stizzite, ma che per qualche ragione preferiscono tenersela dentro. O anche si sedeva su una poltrona con i gomiti appoggiati alle ginocchia e si stringeva la testa tra le mani. Mio suocero non sembrava essere a disagio, sdraiato, vestito di tutto punto sul letto. Pareva considerare normale il fatto di essere morto. Per certi versi appariva sollevato, almeno aveva finito gli incessanti litigi con la moglie, almeno tutte le grane erano finite, ma era chiaro che per lui il decesso era qualcosa di serio che va affrontato con un'estrema dignità. Era tutto preso dalla rappresentazione della morte, di una morte dignitosa e rispettabile. Per questo aveva puntato sul petto lo stemmino della Legione d'Onore, per questo sembrava esibirlo con l'impettita fierezza degli anziani ex combattenti. Era morto. E in più era tutto preso dal suo ruolo di cadavere signorile e rispettabile, e quindi non potevamo parlare. Potevamo al massimo comunicare con il pensiero, ammesso che dentro di lui ci fosse ancora pensieri. Per parlare nel senso stretto del termine era troppo tardi. E anche qua parto da qualche cosa autobiografico, nel senso che mio suocero è deceduto qualche giorno dopo il matrimonio con mia moglie e io l'avevo visto due volte prima di sfuggita, e quindi perché viveva lontano da dove eravamo noi, e quindi in realtà l'ho conosciuto meglio dopo il decesso, durante la veglia funebre, e poi negli anni successivi, dai racconti, eccetera. È vero che quando l'ho conosciuto io ero un uomo di una grande dignità, di centrodestra, consigliere comunale, eccetera, però in realtà di un passato nell'OAS, no? del movimento che voleva che l'Algeria rimanesse francese. Loro erano in Algeria, erano quando il dipartimento francese, e l'OAS si è battuta fino alla fine perché il dipartimento rimanesse, perché non ci fosse dipendenza e era un pezzo grosso dell'OAS, no? Quindi condannato a morte, eccetera. E naturalmente io l'ho conosciuto e quanti anni dopo, moltissimi anni dopo, quando tutto ciò ormai apparteneva a un passato assolutamente, e appunto in questo racconto può sembrare forse eccessivo di scherzare di queste cose, però uno scherzare sempre per come la vedo io, anche molto molto, molto grave, no? Non so se qualcuno può dare noia, però come dire, c'è sempre anche il mio interesse per la narrativa, è sempre anche la narrativa che leggo, perché come dire, uno scrittore prima di essere uno scrittore è un lettore, è sempre cercare la verità, no? C'è chi dice che la narrativa non deve dire la verità, che è solo menzogna, no? Io credo che anche quando mente, perché la narrativa ne mente sempre, quello siamo d'accordo, dice sempre delle verità, no? E è per quello che leggiamo i libri, no? Perché impariamo delle cose che non conosciamo, entriamo in mondi che ci sono lontani, e quindi è sempre, non saprei come chiamarla se non verità, no? E quindi diciamo anche questo mio scherzare su queste cose, questo è proprio un esempio tipico, anche molto come si potrebbe dire, anche gravi. È sempre finalizzato a dire delle cose diciamo che non hanno niente di che non vorrebbero essere superficiali, poi se ci riesco o meno non lo so, però ecco, diciamo. Sì, poi la cosa che colpisce in questo racconto è che, come dire, il narratore ha questa curiosità, questa ammirazione per il socio che però non ha conosciuto, appunto, e quindi si intravede questo dispiacere, però in quel momento vuole fare qualcosa. La cosa più bella gli riesce da fare è continuare a lavare i piatti. Una cosa molto pratica, concreta, sembra di essere utile però in quel momento. Sì. Ma la vita è così, no? Spesso ci rifugiamo appunto in azioni, e appunto a me piace la narrativa che rispecchia questo, come dire, anche la vita è fatta anche di molte cose basse, no? del corpo. Noi siamo innanzitutto un corpo che vive, che mangia, che soffre, no? che ha sonno, che ha fame, no? e a me piace molto la narrativa che riesce a rispecchiare questo nostro essere corpo e questo è nostro essere anche semplici, no? La nostra anche complicazione, ma anche trovo che molta narrativa parta per la tangente, no? Come dire, e rispecchi quelle che sono le rappresentazioni convenzionali della realtà, che invece in realtà sono poi diversissime dal nostro vivere quotidiano, dalle nostre esperienze intime, da quello che sentiamo, no? Se uno pensiamo alle pubblicità, è tutto talmente lontano dal nostro modo poi di vivere, no? Anche i nostri valori, è una completa schizofrenia, no? Che dopo dentro di noi siamo tutti molto molto fragili, molto molto, no? Attaccati a delle piccole cose, così. E a me quello che mi interessa è rappresentare, in questo caso con un registro comico, però nei romanzi con un registro che non è comico, è questa appunto questa complessità della vita che anche bassezza, no? Bassezza nel senso nobile, no? di corpo e di sensazioni. Volevo chiederti come l'hai illustrato questo racconto dedicato. Non l'ho illustrato questo. No, niente, questo l'hai saltato. Questo era veramente difficilissimo. No, anche perché io non sono un critico, però essendo stato un plurilettore, nel senso che l'ho letto in più momenti e ogni racconto l'ho letto e l'ho riletto, e c'erano tanti passaggi, no? Io devo dire che insomma ogni racconto è quasi, potrebbe essere una sceneggiatura di un film, perché sono molto densi, sono molto densi, ogni momento non sai cosa avviene due righe dopo, insomma, non sai cosa ti aspetta, appunto ci sono dei capovolgimenti di fronte, cioè in un certo senso ti riconosci in quello che leggi. Io posso capire per esempio sul primo racconto il fastidio che hanno provato alcuni che hanno letto il racconto La mia città, perché dicono sì, è così la mia città, però ti aspetti un qualcosa, quel qualcosa poi magari avviene, ma anche in questo racconto mi ricordo, cioè è tutto molto, perché ti immagini il clima, dal colore, proprio senti il profumo di quella casa, senti, cioè Giacomo è un vero sceneggiatore, secondo me prima o poi farà la sceneggiatura di un grande film, sono certo di questo, e sì, è così. Quello che è certo è che, diciamo, l'uomo diceva che legge molta poesia, ha lavorato con molti poeti, no? Con Amerini, con Illustrato, e diciamo i miei testi, questo lo so per esperienza, piacciono molto ai poeti e piacciono alle persone che leggono poesia, e quando io non sono assolutamente un poeta e anzi sono molto frustrato nei confronti dei poeti della poesia, perché proprio la poesia mi sembra che abbia un modo di ragionare, dei cortocircuiti che mi sono estranei, e per me è una grande frustrazione, che mi piacciono molto se li leggo, però io non riesco a produrli. Naturalmente poi c'è tutta una prosa, la cesura non è così netta, no? Tra prosa e poesia, però è vero che la poesia si basa su un modo di ragionare che è diverso, però in qualche modo mi avvicino allo scimmiotto, ma non è assolutamente poesia, lo so benissimo, però quel che è certo è che i poeti, tra i miei scarsi ammiratori, no, insomma, ci sono moltissimi, moltissimi poeti. E nel romanzo Anatomia della battaglia, appunto, per riprendere anche il tuo discorso sul registro comico e il registro più invece drammatico, racconti il rapporto tra un figlio e un padre in un momento molto particolare, un padre ammalato di un cancro ormai prossimo alla morte, un figlio che questo padre ha avuto sempre un rapporto conflittuale, ideologicamente conflittuale, il padre fascista, ammiratore dell'ideologia fascista, e il figlio invece militante in movimenti di estrema sinistra. Il rapporto col padre attraversa tanti di questi racconti, spesso con breve, magari con un tono sicuramente più distaccato, però c'è evidentemente un tema molto forte per te. Sì, sì. Tenendo presente che la narrativa non è la vita, è vero che mio padre era, lui è stato fascista fino alla fine, non ha mai rinnegato, lui era repubblichino di Salò, però come dire, abbiamo avuto un ottimo rapporto, come dire, era una persona alla vecchia e per di più di destra, quindi grandi espansioni sentimentali non ne ha mai avute, quindi lui faceva le sue cose, le mie, però assolutamente non c'è mai stato un conflitto aperto. Quindi poi nel romanzo il conflitto che descrivo è inventato, no? Però, come dire, io credo che la narrativa va sempre più in profondità, no? va a cercare le cose profonde. Questo conflitto che non c'è stato nei fatti con mio padre, però qualche cosa di latente sotto c'era, scavando. Però anche lì io volevo semplicemente descrivere gli ultimi mesi di mio padre che è morto di un tumore, ma poi affrontando come dire, il tema della sua malattia, è venuto fuori tutto il resto, è venuto fuori il suo essere fascista, invece il mio essere sull'altra sponda, ma sono tutte cose che sono venute fuori scavando, delle quali io non ero cosciente all'inizio, anche del fascismo io sapevo molto poco, come tutti noi sappiamo molto poco tutto sommato, no? E quindi ho studiato moltissimo e ho capito tantissime cose su mio padre, sulla sua formazione, sul suo modo di essere, proprio scrivendo e scavando. Ecco, un altro racconto che è il primo, vero? Questo qua è La mia patria fuggitiva, dove c'è un protagonista che si è sempre ritrovato a vivere all'estero, no? Quindi questo rapporto con la propria patria, con la lingua, con l'essere italiano. Sono un tipico italiano che parla sempre male dell'Italia, tutti gli italiani parlano male dell'Italia, quando sono all'estero parlano ancora peggio dell'Italia, e siamo famosi per questo, però tutto sommato c'è un attaccamento soprattutto alla lingua. Io direi che quello che mi riconcilia con tutto, nonostante tutte le miserie politiche e generali, no? che il nostro paese sta attraversando, c'è questo grandissimo attaccamento nei confronti della lingua, che anche quello l'ho scoperto scrivendo, e più scrivo sono più attaccato sono alla lingua. Io ho provato a scrivere in francese, mi sono accorto che non mi divertivo niente, che non mi dava nulla, no? E ho capito che proprio il mio piacere della scrittura era utilizzare questo strumento che ho, che mi appartiene, e naturalmente che mi lega agli altri italiani, che mi fanno sì che mi senta al 100% italiano, anche se ho vissuto il 90% della mia vita adulta all'estero, non solo in Francia, ma per lavoro ho viaggiato prima, quindi sono stato tantissimo fuori, però devo dire che... E poi ci sono due racconti in cui si parla dell'editore. Nel primo, il mio attuale editore, che non sente mai quando il protagonista telefona e dice scusa non sento, che non vuole evidentemente sentire. E poi c'è un racconto invece sul primo editore, un racconto che a me è sembrato satirico, questo primo editore che vive nel lusso, che ha uno stile che insomma il suo povero autore se lo sogna, uno stile di vita, voglio dire, e forse è un tema un po' complicato da affrontare, però chi scrive e non ha venduto un milione di copie sa che oggi in Italia è difficile trovare un editore che creda in te e che sia disposto a investire quei quattro spiccioli senza diventare con la tua scrittura senza che diventi un affare, insomma, tant'è che questa casa editrice ha una scritta e dice è un progetto sottovoce, è un progetto editoriale fuori dagli schemi e dalle mafie editoriali. Quindi è un bel tema anche questo. O più che un tema, un problema, direi. Sì, cioè è un tema vastissimo, no? Nel senso che no, diciamo che il suo attuale editore mi ha detto quando mi aveva chiesto delle tavole, Giacomo non lo sa, è un'anteprima, mi fa ma quello dell'editore non avrei mica fatto quello dell'editore, perché è identificabile l'editore per gli addetti veramente ai lavori. E si sono sentiti un attimo, perché Giacomo ha detto io voglio che siano pubblicati questi racconti, questi sono solo uno credo dei racconti non postati non è stato messo, ma più per scelta tua. No, quello che posso dire è che come dire, anche lì la schizofrenia della quale parlavo prima, c'è questo mito del successo economico, no? Del successo mediatico, che ormai è diventata una cosa universale e ha travolto nella fattispecie la cultura italiana, è stata completamente come dire, colonizzata da questo mito. Il mondo dell'edizione ne ha sofferto molto, come dire, la figura dell'autore come la si intende in Francia è un qualche cosa veramente completamente diverso da quello che intendiamo noi per autore. Io non conosco i paesi tedeschi, no? Però credo che sia anche lì molto molto diverso. Sappiamo che un autore ha bisogno di formarsi, di crescere, di imparare a scrivere. Il mito che abbiamo è che lo scrittore non sforna senza nessuna fatica dei capolavori, tira fuori dal cappello, meglio se è giovane, no? E in realtà le cose sono molto diverse. L'autore è una persona che ha bisogno di lavorare, di pensare, ha bisogno di tempo, no? Per di scrivere qualche cosa di fragile, e questo concetto da noi, se un libro va male, pubblichi con un grosso editore, come è successo, un libro non va tanto bene, il grosso editore ti allontana come se fossi veramente carta, e questo in Francia veramente non succederebbe, perché si sa benissimo che un libro può andare peggio, però se c'è l'autore ne pubblichi un altro sì, ancora finché il successo viene, no? È normale che se c'è, come dire, se c'è il valore, no, questo, non so se sia un discorso molto lungo, ma per dire che anche lì, tra l'immagine che si può avere dall'esterno, no, del successo, il Saviano o questi altri, in realtà lo scrivere, come ogni attività artistica, è lavoro, è tantissimo lavoro. Gli artisti sono degli assatanati di lavoro, no? E dal lavoro, quello che noi chiamiamo lavoro, dandogli una connotazione negativa, il lavoro è la cosa più bella che si può fare, no? Dove ci si può realizzare, no? e da lì vengono poi le opere, no? Ma questo che sia la danza, no? o che sia la pittura, o che sia qualsiasi altra cosa. Sì, sì, sì, sì. Se qualcuno ha delle curiosità, vuol fare qualche domanda, sia all'illustratore che all'autore. No, al critico. No, io non c'entro, sono qui, sono venuto solo perché mi danno un tuo quadro da portare via. Non ho niente. Qua mio mercante, se vuoi trattare con voi. No, ma Valeria ha già trattato, adesso io me lo faccio incartare e me lo porto via, insomma. È legato molto bene. Niente, non c'è speranza. Ti mando la querellina. Ecco, grazie. No, invece, sempre a proposito delle pubblicazioni in rete, c'è stato questo durante le fasi più drammatiche della vicenda di Eluana Englaro, in molti siti, molti autori, molti scrittori, molti intellettuali hanno deciso di pubblicare il proprio testamento biologico. Sapete, si è molto parlato di cosa fare, questo tema della bioetica, se uno si trova in determinate condizioni, chi decide se staccare la spina, non staccare la spina, insomma, avete seguito il dibattito. E il racconto che conclude il volume si intitola proprio Il mio testamento biologico, un racconto molto, molto forte. In questo posto, in questo momento, sotto questo cielo ancora invernale, di vetro soffiato, vi chiedo di uccidermi. Non subito, quando ce ne sarà bisogno, quando me lo meriterò, quando sarò trafitto da tubicine e non risponderò alle vostre domande, quando si paragonerà la mia esistenza a quella di un vegetale, quando qualcuno vorrà a tutti i costi farmi del bene o del male, o anche solo prendermi come ostaggio della sua petulante coscienza, quando la legislazione in vigore farà decidere i medici o i cammelli. Ve lo chiedo nel pieno possesso delle mie facoltà cerebrali, insomma, così mi sembra. Certo, potrei essere vittima di una primaticcia demenza senile o anche solo ubriaco, ma non mi pare. Mi osservo nel riflesso della porta a vetri del bagno e mi vedo come mi sono sempre visto, solo un po' invecchiato. Arriva il momento in cui bisogna fidarsi di se stessi, nonostante le tante delusioni che ci si è dati. Chi decide, allora, della nostra vita quando non siamo più in grado di decidere? Possiamo decidere noi? Dobbiamo affidarci a qualcuno? Decide il legislatore? Decide... chi decide? Yeah. E qui nel racconto chiedere questa decisione, nonostante si parli di uccidere, diventa invece un gesto di amore, in verità, verso gli altri e verso se stessi, no? Mi pare. Sì, appunto, il racconto non dà delle anche in questo caso non dà delle risposte precise, no? Anche perché chi parla dimostra più avanti una grande attrazione per questo vivere vegetale. Dice: ma la vita per me è sempre stata pesante, è sempre stata difficile, è sempre stata un soffrire, e quindi in realtà starò meglio quando vegeterò. Però per il vostro bene uccidetemi, no? Uh-huh. Però diciamo anche lì c'è un rovesciamento, perché in genere si tende a considerare la vita vegetale come qualche cosa di negativo, e l'uomo è anche vita vegetale, no? Anzi, la vita è vegetale, la vita ha un qualche cosa di vegetale, di linfa che cresce silenziosamente, che monta, no? Dopo è chiaro che l'uomo non è solo quello, però diciamo, io non ho nessun disprezzo per la vita vegetale, no? Anzi, per il mio lavoro, ma diciamo, per me non è un insulto ha ridotto la vita vegetale, no? È chiaro che poi può essere un peso per la società, ma questo per dire che è un tema molto molto complesso in cui il racconto non prende in una posizione precisa, anche se attacca in modo chiarissimo l'ipocrisia, quello sì, no? Sì. Chiamiamo le cose per quello che sono, quello sì, però anche lì appunto è sempre una cosa per me delicatissima: chi può decidere della vita di un altro, anche se questa vita è un filino che non dà risposta, no? Per me sono cose veramente molto molto molto delicate, avrei difficoltà a dare delle risposte precise, a dire la verità, no? Come... L'arte, che come ha illustrato questo tema così difficile? Non l'ha illustrato, non l'ha illustrato. I temi difficili, davanti alla morte l'arte si inchina. Secondo me è l'unico rispetto che si può avere, è chinarsi e occuparsi della vita. Cioè, io ho una concezione dell'arte molto mattissiana, no? Per me Matisse è un esempio, come Rouault, che va in pellegrinaggio per la Francia con 6 figli e continua a dipingere questi cristi dai volti sereni, pur essendo trafitti e sconfitti. Per me l'arte, il compito dell'arte oggi, anche se spesso i musei ci propongono sacchi di spazzature, diciamolo pure, sacchi di merda e tutto il resto, io davanti a una cattedrale con delle belle vetrate luminose mi si apre il cuore davanti alla cappella di Battista, Ronchamp o a Vance, alla fondazione, tu vedi questi quadri, questi colori. L'arte deve dare speranza anche. Uh-huh. E anche il libro di Autismi è un libro proprio che gioca su questo dualismo, no? Quando tutto sembra perso, tutto di nuovo conquistato, secondo me. O no? E viceversa, quando tutto sembra conquistato, ti vieni rimesso in gioco, proprio come nella vita. Bravo Giacomo. Il sostenitore. Va bene. Ecco, in verità io ho già prenotato le prime 1000 copie, perché così io so che prende già 3 premi letterari, almeno nell'arco transalpino. A me piacerebbe una cosa, come curatore d'arte, come curatore d'arte, dire che ho fatto un estratto delle mostre all'Istituto di Cultura Italiano, per esempio a Bruxelles l'anno scorso, che non sarebbe male fare algún tipo de contacto con tramite la biblioteca o tramite io come curatore, come che tengo contatto con diverse istituzioni di cultura italiana, che tutti hanno la biblioteca, e fare alcune presentazioni, no? Sarebbe interessante del libro. Assolutamente sì, sì, sì. Dopo possiamo parlare, perché tengo contatto con Bruxelles, con sì. In realtà questa doppia lingua l'uomo non è stato sincero al 100%. Un po' l'ha fatto per me, no? dice. Però un po' l'ha fatto anche per noi, perché siamo molto ambiziosi e vogliamo anche pubblicare il libro appositamente in Francia. Del resto tutti i miei libri sono pubblicati in Francia, quindi non sarebbe. E quindi vorremmo anche. No, c'era anche questa. No, ho detto. No, più che altro la prima cosa che mi è venuta in mente è che quando uno vive in un altro paese, magari parla sì la lingua italiana, apprezza la lingua italiana, quando esce per la strada a fare la spesa parlerà in francese, no? Sì. E allora mi piaceva l'idea. E poi io sapevo che Giacomo prima o poi farà qualcosa in lingua francese, e proprio su questi racconti insisterà. A parte poi il tema dell'editoriale, quello che stavo parlando io, sì, perché il libro può arrivare alla gente, perché l'editoriale che ha editato il libro si incaricherà proprio della distribuzione del libro a livello nazionale, in Italia. Però tramite l'Istituto di Cultura Italiana, che sono praticamente 124, se non sbaglio, istituti di cultura italiani che sono intorno al pianeta, Austria, Australia, tutti i continenti, anche in Africa, sarebbe interessante anche poter far arrivare il libro a tutti gli istituti di cultura italiana, quindi che un libro e la biblioteca lo possono leggere tante persone anche. Vediamo, sì. Cioè, può essere una questione interessante, siendo che stiamo in una biblioteca, per questo faccio questa segnalazione, sì. Anche la direttrice può dare. Bisogna segnalarlo all'editore, che gli editori tengono. Non spediscono i libri, poi quelli piccoli sono ammirevoli, perché osano rischiare. I grossi sono delle carogne, quindi i grossi sono 10 presentazioni. Ci sono anche delle librerie italiane. Sì, certo. In America Latina, io sono argentino, no? Sì. In Argentina abbiamo le librerie dove si vendono i libri, che sono libri in italiano. Sì, abbiamo. Ci sono molti scrittori vengono da voi, sì. Sì, a Lima, per esempio, io sto in quello che c'era a Lima ora a dicembre, posso portare un tuo libro, io personalmente, all'Istituto di Cultura Italiana di Lima, e possiamo programmare anche con, in todo caso, anche con i trentini a Lima. Sì, beh, quello non solamente con i trentini nel mondo, l'associazione che era qua in Trento, sino con l'associazione che i trentini hanno in Lima, che possono essere molto interessanti. Anche a promuovere leviamo il racconto la mia città, tagliamo una versione per l'estero, per trentini nel mondo, e per una versione per l'estero, per quello che era andato. Sai come si dice in campo letterario? Facciamo un grande lavoro di Lima. Ah, una bella cosa, oh, no, si dice, no, Brasile, sì. C'è una italiana, sì, no, possiamo chiudere qua, possiamo, certo, ci sono domande, qualcosa. Un quarto, abbiamo dedicato un tempo abbastanza sufficiente, grazie a quelli che non sono andati via prima per preparare la cena. Grazie a voi.